2-3, 1-2-3. Tocca a me dare il saluto di benvenuto. Domo in qualche modo, insomma, ecco, di presentatore della casa e di presentare la casa a voi e voi alla casa, insomma, ecco. Ed è una casa nuova un po' per tutti, perché questa 26esima settimana è la prima settimana che noi facciamo nella nuova sede qui in città, perché fino allo scorso settembre l'istituto viveva e anche le settimane di studio avevano un luogo nella Villa Tambosi, che ricordiamo con nostalgia, anche se appunto la nuova sede ci offre evidentemente un'organizzazione di servizi molto migliore e, diciamo, un ambiente più razionale. Questo trasferimento fisico non è soltanto una cosa esterna, ma è anche un banco di prova per i nostri seminari. In questo senso, cioè, che a Villa Tambosi, in un ambiente familiare, in cui l'istituto in qualche modo era cresciuto poco a poco dai primi libri nei muri, ecco, e si era, aveva messo le radici nei primi 10 anni in modo molto anarchico e confuso, ma anche fondamentalmente molto vitale e simpatico, era abbastanza semplice creare questa atmosfera che noi pensavamo appunto essenziale alle settimane di studio, cioè un'atmosfera che è del tutto il contrario dell'atmosfera del congresso, che è del tutto il contrario dell'affollarsi dell'erudizione, ma che voleva rappresentare appunto invece intorno alla parola di alcuni maestri, pochi, generalmente uno per ogni seduta, uno per ogni mezza giornata di lavoro, ecco, poter dare appunto lo spazio per un confronto di idee ampio e non appunto soffocato subito dal procedere di comunicazioni ed interventi più o meno ufficiali. Ecco, lo spazio fisico, ho detto, è cambiato. Noi vorremmo che rimanesse invece questo tipo di atmosfera, insomma, ecco, che caratterizza le nostre settimane. Qui non si è. Si è certo intorno a un tema interessante e scelto dal punto di vista il più possibile provocatorio per le intelligenze dei partecipanti, e quindi il tema è importante, ma appunto importante soprattutto come provocazione, ecco, di un discorso che oltre le relazioni deve andare nelle discussioni e oltre le discussioni deve andare nel passare delle ore insieme, insomma, ecco, tra storici italiani e storici tedeschi, e per una riflessione che ha bisogno appunto di questi ritmi profondi di interscambio per poter essere veramente valido. Quindi questo è solo per commentare, insomma, la preoccupazione appunto che il trasferimento della sede non si traduca in un mutamento di questo clima che invece è assolutamente essenziale. Detto questo, riservandomi di prendere la parola poi dopo per problemi di tipo pratico-organizzativo, alcuni cambiamenti del calendario, passo alla parte terminale di questa mia funzione di maggiordomo, portando appunto i saluti delle autorità che non sono venute ma che si scusano, cioè del Presidente della Provincia, Dottor Angeli, del Presidente dell'Istituto Trentino di Cultura, il Senatore Kessler. L'Istituto Trentino di Cultura, questo è bene dirlo, è l'istituto padre o madre, una figura un po' equivoca, insomma, dal punto di vista della classificazione, di questi istituti che non sono appunto istituti universitari, ma sono collegati in qualche modo a questa funzione di promozione della ricerca che l'Istituto Trentino di Cultura a Trento gestisse come agenzia della provincia autonoma, una specie di CNR locale, per spiegare ai non pratici, insomma, ecco, delle cose trentine, dato lo statuto d'autonomia. E aspettavo appunto l'assessore alla cultura, il dottor Andreolli, che mi aveva promesso il suo intervento e non vedendolo, quindi mi faccio suo tramite anche per questi saluti. Allora, il presidente del comitato scientifico, il professor Vanduska, ha la parola. Oggi nella duplice funzione, dicevamo, oggi pomeriggio parlerà come relatore, adesso invece parla come presidente del comitato. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, Freund Prodi hat Ihnen ja schon das Wichtigste gesagt. Ich möchte nur ganz kurz darauf hinweisen, weil ich gesehen habe, es sind sehr viele hier, die, glaube ich, zum ersten Mal da sind und andere, die schon oben in der Villa Tambosi waren. Es ist schon gesagt worden, dass unsere Seminare, unsere Herbstseminare auf eine gewisse Tradition zurückblicken. Wir haben oben in der Villa Tambosi 25 Seminare abgehalten und dieses, das 26. ist jetzt das erste, das hier abgehalten wird. Es hat mich gleich sehr gefreut, dass sich vor allem die jüngeren Kollegen, also die Borsisti, die zum ersten Mal da sind, gleich zu den Büchern begeben haben und sich das angeschaut haben, was wir publiziert haben, was ja zu einem großen Teil eben, was die Quaderni betrifft, die Ergebnisse bzw. die Referate. Leider nicht, das ist aus technischen und finanziellen Gründen nicht möglich, nicht die Diskussionen enthält, die wir hier geführt haben. Das ist kritisiert worden und mit Recht, aber es gibt eben Grenzen finanzieller und technischer Art, die das bisher unmöglich machten, genauso wie es ja leider bisher unmöglich war und ist, auch immer, dass in deutscher Sprache auch diese Bände zu publizieren. Nun, wenn Sie diese Bände ansehen, so sehen Sie, dass wir sehr verschiedenartige Themen behandelt haben, dass wir uns aber andererseits auch bemüht haben, gelegentlich eine gewisse Kontinuität, ein Thema oder eine Gruppe von Themen zusammenzufassen. So war etwa am Anfang gleich die ersten, die publiziert worden sind. Das war gleich das erste neuzeitliche Seminar, das sich mit dem politischen und sozialen Katholizismus beschäftigt hat, wo die Koordinatoren ja Passerin d'Entreve und Konrad Repken waren. Ettore Passerin d'Entreve, nicht Alessandro, also der Historiker. Oder das zweite dann über den Movimento Socialista e Operaio, wo Koordinatoren Leo Valiani und ich waren. Und jeweils für diese beiden kulturellen Gebiete, also den italienischen und den deutschen Sprach- und Kulturraum. Dann ging das weiter, kam der Liberalismus mit Matteucci und Lill, der Nationalismus mit Valsecchi und Lill und dann die letzte dieser, in dieser Reihe war die über Faschismus und Nationalsozialismus, wo wir als Koordinatoren wieder Leo Valiani und Karl Dietrich Bracher hatten. Sie sehen, wir haben also auch immer wirklich uns bemüht, erste Fachleute als Koordinatoren zu haben. Dann ist, er hat gesagt, ich soll es nicht wieder sagen, aber ich muss es doch sagen, dann ist eigentlich eine Anregung von Freund Pierangelo Schiera wirksam geworden, der ja, wie Sie wissen, sich sehr intensiv mit dem 19. Jahrhundert beschäftigt hat. Soeben ist ja auch in unserer Reihe, nicht bei den Quaderni, sondern bei den Monographie, seine Arbeit über das Laboratorio Borghese, das heißt über Wissenschaft und Politik in Deutschland des 19. Jahrhunderts hier erschienen, und er hat angeregt, dass wir, da ja das 19. Jahrhundert das auch das Jahrhundert der Geschichtswissenschaft, des Aufwachsens der Geschichte als Wissenschaft ist, dass wir hier behandeln die verschiedenen großen Zeitabstände. Die verschiedenen großen Zeitabstände im Spiegel und in ihrer Auswirkung und wie sie betrachtet wurden im 19. Jahrhundert. Und so hatten wir das erste dieser Seminare über das Mittelalter, il Medioevo nell'Ottocento, mit Koordinatoren Pierangelo Schiera und Reinhard Elze. Dann hatten wir voriges Jahr ein besonders interessantes Seminar über l'Antichità nell'Ottocento, und als Koordinatoren hatten wir da das Glück, noch, heute müssen wir sagen, in doppelter Hinsicht das Glück, Arnaldo Momigliano als einen Koordinator zu haben und Karl Christ aus Marburg als den anderen. Ich weiß nicht, ob Sie alle wissen, dass Arnaldo Momigliano am 1. September dieses Monats von uns gegangen ist, und wir wollen ihm einen Augenblick auch des Gedenkens widmen. Er ist hier, hat sich hier sehr wohl gefühlt und hat, wie mir Freund Prodi erzählt hat, auch noch kurz vor seinem Tod ihm einen sehr freundlichen und lieben Brief geschrieben. So, und diesmal ist die Renaissance dran, und wir sind sehr glücklich, dass wir solche Kapazitäten wie Cesare Vasoli und August Buck auch hier wieder als Koordinatoren bekommen haben. Das Prinzip, das wir hier haben, dass jeder in seiner Sprache spricht, ist ja bekannt, und wenn es Schwierigkeiten gibt, so sind genügend da, die sich hier als Übersetzer und Vermittler zur Verfügung stehen können. So viel zu diesem Seminar, und nun müssen wir uns bemühen, dass wir diesem schönen Raum, der uns von den Autoritäten zur Verfügung gestellt wurde, auch einen ähnlich kollegialen und Geisterzusammenarbeit entwickeln können, wie wir das schon in Villa Tambosi gemacht haben. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Grazie Presidente Vandusca. Chiedo scusa al dottor Andreoli, assessore alla cultura della provincia autonoma di Trento. Noi abbiamo cominciato volendo fare i trentini, insomma, cioè cercando di essere forse più puntuali e quasi... Ecco, Ma la mia non vuole essere una scusa... non formale, veramente l'Istituto Storico da anni vanta anche da questo punto di vista una grande puntualità, e quindi la mia forzata assenza temporanea non trova attenuanti da questo punto di vista, però ho preferito ugualmente essere presente, innanzitutto per portare il saluto da parte nella mia duplice veste di assessore alla cultura e di membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Trentino di Cultura. Immagino che il segretario avrà già informato gli ospiti nostri di quelle che sono le linee essenziali della vita di questa istituzione. Il mio saluto a loro tutti è anche accompagnato da un augurio, perché questa proposta, che ormai si ripete da anni con grande frutto e con grande riconoscimento nazionale ed internazionale, anche quest'anno abbia la sua efficacia e porti i suoi frutti. Un ringraziamento particolare va al nostro Presidente, a tutto lo staff dirigenziale e agli oratori, i relatori, che quest'anno hanno accettato di accogliere questo invito. Siamo convinti che, proprio anche perché sta crescendo finalmente la tanto attesa facoltà di lettere dell'Università Statale di Trento, queste iniziative possano concretamente rappresentare un'occasione in più per la nostra comunità locale, ma soprattutto a livello nazionale, di interazione fra università e Istituto Trentino di Cultura. Questa proposta culturale politica, nata ancora negli anni 62, che ha trovato ritardata applicazione proprio per le fortunose vicende politiche che hanno accompagnato inizialmente la vita dell'Università Libera di Trento e il ritardo con il quale poi l'Università è stata statizzata, e ha spostato quindi nel tempo l'attuazione di questo progetto. Se l'ha spostato, oggi però ci sono le condizioni materiali perché questo avvenga. È un auspicio che qui formulo come espressione politica della provincia autonoma di Trento, che questo nostro Istituto Trentino di Cultura continui ad interagire e moltiplichi queste interazioni con l'università. È la condizione sine qua non perché ambedue possano crescere pur nell'autonomia dei loro compiti, delle loro istituzioni e dei loro obiettivi, ma nella interazione noi crediamo che l'occasione in più per questa comunità di crescere venga offerta. Grazie e mi scuso per queste brevi parole. No, ringrazio davvero l'assessore anche per il senso delle sue parole e senza volere portare più via ulteriore tempo, ma il concetto appunto a cui accennavo prima e che è stato da lui approfondito è questo, cioè l'intervento della provincia autonoma di Trento in campo culturale non ha voluto essere l'intervento così episodico, ecco, ha voluto portare attraverso l'Istituto Trentino di Cultura la creazione di centri di ricerca stabili, ecco. Ed è una caratteristica appunto delle nostre settimane non essere appunto degli episodi a sé, come ricordava appunto il Presidente Vandruska anche prima, ma di essere coordinate a un istituto di ricerca, quindi non solo ad una biblioteca che avremo poi modo di visitare i prossimi giorni. Insomma, ecco, abbiamo ormai insomma, una dote di periodici e di libri veramente direi eccezionale, ecco, almeno per il livello a cui siamo abituati nell'università italiana, ecco. Ma abbiamo soprattutto, direi così, da anni questo nucleo, insomma, ecco, di interessi, questo coagulo, insomma, ecco, di interessi e di uomini, quindi, che cerca di portare avanti determinate tematiche e determinati interessi scientifici. E quindi, in qualche modo, quelle che sono, e ricordavo prima il nostro Presidente Vandruska, le pubblicazioni dell'Istituto, sono la sedimentazione di questo lavoro continuo, insomma. Sul metodo dei seminari, per venire a noi, chi c'è già stato lo conosce, per chi non c'è stato, basta, spero, una breve esperienza. Per dire, i due coordinatori appunto sono il professor Buck e il professor Vasoli, che ancora ringrazio per aver accettato la fatica anche in questi mesi precedenti di organizzare. Poi abbiamo le relazioni appunto miste, professori italiani e colleghi tedeschi, possibilmente distribuite perché ciascuno parla la propria lingua. Questo è un altro dei metodi dell'istituto, ecco, cioè non si pretende che ognuno parli la lingua dell'altro, ma si suppone che uno capisca, ecco, Se non c'è bisogno, il presidente Vandruska, perfettamente bilingue e sovrano nella due aree, il professor Bucca altrettanto, per questo, eccetera, potranno fare riassunti, presentazioni, tutto quello che sarà necessario, Zusammenfassung e non so altro. Ecco, quindi non ci sarà problema. Ecco, però il modello è di non perdere tempo con traduzioni e invece di parlare ognuno la propria lingua. Questo ha funzionato in genere abbastanza bene, insomma. Ecco. Quindi coordinatori, relatori, i borsisti, appunto, che anche qui saluto, sono 8 italiani e 8 tedeschi, come dal bando di studio, insomma, ecco, si sa, salvo piccoli mutamenti poi intervenuti, un'impossibilità, eccetera, eccetera, e alcuni professori ospiti. Ecco, come diceva il professor Vandruska, questo è il terzo seminario di una serie che ha preso un tono, un settore, insomma, un particolare, cioè nel secolo dell'unificazione nazionale, come la Germania e l'Italia hanno rivissuto il proprio passato. Quindi abbiamo avuto, questa è la terza puntata di questa telenovela, insomma, nel senso che abbiamo visto, appunto, siamo partiti dalla storia medievale, poi siamo retrocessi l'anno scorso alla storia antica, e adesso tocchiamo i temi del Rinascimento che è realmente il perno, insomma, ecco, direi, per la vita tedesca. Ecco. Sarebbe abbastanza facile prendere dalla civiltà del Rinascimento in Italia le pagine, per esempio, introduttive alla seconda parte, insomma, ecco, lo Stato e l'individuo, per vedere, insomma, come per il Burckhardt l'Italia la prima a squarciare questo velo e a considerare lo Stato e tutte le cose terrene da un punto di vista oggettivo, ma al tempo stesso si risveglia potente negli italiani il sentimento di sé, del suo valore personale e soggettivo, eccetera. L'uomo si trasforma nell'individuo, sono pagine che tutti conoscono a memoria, ecco. Sono queste pagine, ecco, che ci hanno spinto a considerare particolarmente l'importanza, appunto, di questo ripensamento. Un interesse, appunto, che risale a molti anni fa. Avremmo voluto venire con noi, le condizioni di salute non l'hanno potuto permettere, due persone a cui siamo particolarmente legati in questo percorso intellettuale. Da una parte il professor Felix Gilbert, insomma, che ha scritto sui nostri annali già nel 1981 proprio sul tema Jacob Burckhardt e il mondo moderno, insomma, ecco, sull'attualità di Burckhardt, insomma, e il professor Eugenio Garen, che appunto, se le sue condizioni di salute non le avessero impedito, sarebbe stato uno dei nostri. Ecco. Il ricordo, poi, a cui mi associo particolarmente, è il ricordo che ha già fatto il professor Vandruska e il professor Momigliano. Abbiamo cominciato a trascrivere proprio dal nastro l'introduzione ai lavori del seminario dell'anno scorso, non la relazione, perché la relazione lui la consegnò perfetta, come era sua abitudine, e quindi è già tutta. E l'anno scorso Momigliano, appunto, era il coordinatore e ha incominciato in modo stupendo, insomma, ecco, nel ricordo di Pasquali, da prima, del suo grande maestro. E mi torna in mente, poi diceva, uno degli evidenti paradossi della vita italiana delle epoche più recenti. La riluttanza degli italiani negli ultimi due secoli, diciamo tra il 1750 e il 1950, a porsi questioni fondamentali sul loro passato classico greco e latino. Riluttanza che si accompagna ad un tormento continuo riguardo a tale passato. Non dimentichiamo che l'Italia meridionale e la Sicilia hanno un passato autenticamente greco, per non parlare della circostanza che la reintroduzione della Grecia nell'apparato della cultura dell'Europa occidentale avvenne soprattutto in Italia per iniziativa italiana. Ecco, e sono pagine in cui appunto la siccità rispuntava proprio come base della nostra riflessione sull'oggi sostanzialmente. Ecco, e proprio con questo invito al presente io penso si debba cominciare i lavori concreti di questo seminario. Alcune solo avvertimenti. Dunque, i lavori cominceranno di solito, salvo stamattina, cominceranno alle ore 9. Ecco, così stamattina, il primo giorno, abbiamo ritardato appunto mezz'ora, come sempre. E il pomeriggio intorno alle ore 15 si riprende, insomma. Ecco, salvo che poi i coordinatori decidano altrimenti, perché la sovranità dei coordinatori è... Ecco, due mutamenti sostanziali rispetto al programma. Anche qui il carattere del seminario esige che non ci sia eccessiva rigidità, quindi io da una parte chiedo scusa delle variazioni che dobbiamo introdurre all'ultimo minuto, dall'altro le difendo perché se noi fossimo rigidi dopo diventa un congresso, insomma, ecco, diventa tutto inamidato, insomma, ecco. Quindi due piccoli mutamenti sui quali però richiamo la vostra attenzione. Il professor Tessitore non può venire, è l'unica lacuna che si è introdotta nel programma. Ha mandato una grossa relazione scritta che sarà distribuita oggi pomeriggio, quindi la sua relazione c'è. Ecco, questo però porta al fatto che stamattina, e abbiamo già abbastanza, i lavori sono così. C'è l'introduzione del professor Vasoli, poi eine kleine Pause, e poi parla il professor Buck, stamattina. Al pomeriggio alle 15 parla il professor Vandruska, e poi c'è la discussione generale, tutta la giornata. Insomma, questo è il panorama di oggi. È la prima modifica in questo senso. La seconda modifica è l'anticipo, se non ci sono obiezioni da parte dei partecipanti, ma qui ci sarebbe un accordo dei coordinatori, della relazione del professor Dionisotti al mercoledì pomeriggio, che tradizionalmente riserviamo sempre libero per visite alla città, eccetera. Visite che potrebbero poi essere fatte il venerdì pomeriggio, se ne finiamo i lavori invece all'una, per chi vuole rimanere qui. Cioè, sostanzialmente la relazione del professor Dionisotti è anticipata a mercoledì pomeriggio alle ore 15. Ecco. E i lavori quindi terminerebbero dopo la colazione del venerdì, permettendo quindi a chi deve andare via di andare via e invece a chi può rimanere un pomeriggio libero. Ecco, io non avrei altre notizie e quindi da ora in poi i coordinatori hanno il potere assoluto su questa settimana. Significativi. Come è noto largamente ed è stato molto sottolineato nel libro ormai canonico a suo modo del Ferguson, proprio l'area culturale di lingua germanica ha prodotto, oltre a indagini particolari di altissimo livello, le interpretazioni generali del concetto di Rinascimento che hanno più influito sulle discussioni e i dibattiti di un intero secolo, i cui maggiori protagonisti sono stati del resto spesso tedeschi o fortemente legati a tradizioni intellettuali e storiografiche tipicamente germaniche. E ne occorre ricordare come lo stesso vocabolo Renaissance abbia acquisito la sua crescente popolarità e insieme ad essa anche taluni tipici connotati teorici, talvolta sfumanti nel mito, Proprio attraverso la straordinaria fortuna del grande libro di Jacob Burckhardt, autore di lingua tedesca, anche se estraneo per le sue origini e le sue particolari convinzioni etico-politiche, ai problemi che hanno dominato a lungo durante gran parte del XIX secolo nella cultura tedesca e italiana. La formazione di uno Stato nazionale, la rivendicazione della originalità delle proprie tradizioni, il proposito di formare una coscienza storica e politica della propria identità e naturalmente anche tutte le polemiche e i conflitti ideologici di ogni genere che si sono intrecciati a simili processi. È però altrettanto certo che il Burckhardt aveva ben presente, sia nell'elaborazione generale della sua immagine del Rinascimento, sia nelle continue e insistenti analisi e critiche sempre ricorrenti nella sua opera di storico della cultura, proprio talune personalità capitali della vita intellettuale tedesca del suo secolo, e in particolare le figure dello Hegel e del Droysen. Si tratta di argomenti che verranno però subito trattati da un illustre maestro come August Buch, che ci fornirà il punto di attacco di questi lavori. Da parte mia vorrei soltanto aggiungere che anche nella cultura italiana dell'Ottocento, il problema storico rappresentato dai due secoli, il 400 e il 500, con i quali si identifica l'età rinascimentale, è stato sempre acutamente percepito al centro di quel continuo ripensamento o addirittura ricostruzione della storia d'Italia che ha impegnato sia dal punto di vista ideologico sia da quello storiografico gli intellettuali appartenenti alle più diverse tradizioni culturali e politiche di quei decenni centrali nel secolo che sono poi l'età del Risorgimento politico italiano. Con questo non voglio naturalmente dire che le altre culture europee, in particolare quella francese, non abbiano svolto un notevole ruolo nella fortuna e sfortuna del concetto e insieme anche del mito storiografico del Rinascimento, argomenti di così lunghe e in fondo mai sopite discussioni e polemiche. Basterebbe solo pensare al contributo fornito da molti studiosi francesi, in particolare dal Michelet, che però era uno degli intellettuali di Francia maggiormente influenzato certamente dalla cultura filosofica e storica tedesca. Basterebbe questo per intendere come intorno a un simile tema si sia intrecciato un fitto e teso dialogo europeo che aveva come suo scopo, in definitiva, la intelligenza dei caratteri storici, politici, della modernità, il ruolo svolto nel suo avvento dalle varie civiltà nazionali e, in ultima analisi, anche e soprattutto, la ricerca di una risposta ai problemi attualissimi della difficile convivenza di culture e nazionalità sempre più competitive, di contro all'idea unitaria dell'antica tradizione della Respublica Literarum, retaggio ancora operante della ispirazione umanistica comune. Si tratta di temi a tutti ben noti e che il disegno del nostro seminario e i suoi principali argomenti pongono in netto rilievo, già che credo che soprattutto in Germania, specialmente in alcuni degli autori che sono al centro dei vari interventi degli amici e colleghi tedeschi, sia stata sempre prevalente la valutazione del Rinascimento come un evento epocale della storia dell'Occidente, o come nell'interpretazione dello Hegel, momento di una dialettica o di un processo universale nel quale emerge la piena realizzazione dello spirito. Ma proprio per questo si è subito imposto, credo, un grande problema storiografico, quello del rapporto tra la rinascita come fenomeno storico alle origini prevalentemente italiano e spesso caratterizzato nelle interpretazioni, soprattutto dalla sua aura estetica, e il maggiore evento della storia nazionale tedesca, la riforma religiosa. È un problema che, a mio avviso, era già ben presente negli stessi uomini della riforma e nelle loro ben diverse valutazioni della cultura italiana del tempo e del nesso tra Renascenza delle umane lettere e Reformatio Ecclesiae, e che però la cultura tedesca ottocentesca fu indotta a accentuare e talvolta a radicalizzare secondo le diverse prospettive che sono offerte, ad esempio, dal sistema delle opposizioni e mediazioni hegeliane, dall'immagine burcardiana di una società e di una cultura che hanno infranto ogni limite e credenza del passato nell'impulso alla liberazione integrale dell'uomo, da taluni celebri aforismi nicciani, così violentemente polemici contro l'arretratezza tedesca e il ritorno medievale di Lutero, ma anche dalle pacate analisi del Diltay, così acuto nel riconoscere la continuità di alcuni grandi temi filosofici tra il mondo intellettuale della Rinascita italiana e quello della Riforma tedesca. Dalle indagini poi culminanti nell'amplissima ricerca del Burda e dei suoi discepoli intorno alle radici religiose della stessa idea di Rinascenza. Ne stupisce che alla presentazione di un Rinascimento che riassumeva spesso nella sua immagine e molti lochi di antiche polemiche confessionali, l'immoralismo, l'ateismo, la perdita di ogni coscienza religiosa, ma anche la separazione tra l'etica e la politica e la rivendicazione della piena autonomia dell'agire umano, valutati in modi così diversi, abbia poi risposto la minuziosa ricerca di storici, specialmente di lingua tedesca e di tradizione sia cattolica sia protestante, di tutti quegli elementi, fenomeni, personalità o testi che finivano col smentire tali caratterizzazioni, sino ad giungere negli esiti più discutibili alla contrapposizione così cara al compasto tra un rinascimento cristiano e un rinascimento pagano, responsabile ai suoi occhi per buona parte anche degli eccessi della riforma. A questo proposito si dovrà pure sottolineare come la cultura tedesca non fosse altro, attraverso il lavoro storiografico esemplare di alcuni grandi storici dell'arte, abbia dimostrato una particolare sensibilità proprio per i valori estetici della vita rinascimentale, così come è stata all'avanguardia, basta pensare solo all'opera del Voigt, nella ricostruzione di quel ritorno degli antichi che oggi è più che mai al centro degli interessi degli storici dei due secoli rinascimentali e degli studiosi delle origini delle nuove filosofie e delle nuove scienze. In realtà, chi ricordi cosa abbia significato per la grande civiltà germanica ottocentesca l'appassionato richiamo al mondo classico, sul quale si fonda lo stesso concetto di humanismus, e la sua esaltazione sia come vagheggiamento estetico, sia come ricerca di un supremo modello educativo e di metodo esemplare di formazione umana, sia ancora come presupposto di uno studio rigorosamente storico e filologico, non ha difficoltà a comprendere come il Rinascimento fosse stato spesso considerato l'età che aveva tentato la più difficile impresa di far rivivere quella lontana e perduta perfezione, di svelarne il vero volto contro la distruzione e la deformazione del tempo, di elevarla a rinnovata misura umana e di fondare su di essa la rinascita della storia umana. Più tardi, in anni già tragici e terribili, queste idee poterono nutrire il generoso sogno utopistico di un impero apollineo, per usare l'espressione del Burda, custode supremo della civiltà contro ogni barbarie rinascente, conciliatore dell'antichità classica e del mondo germanico medievale, scopo supremo di ogni vera cultura e di ogni forma di umanità civile. Ma credo che speranze e miti non dissimili abbiano nutrito sempre quella nostalgia e attrazione per il tempo del Rinascimento, Anzi, per la stessa idea centrale della Renaissance, pure nei suoi connotati suggestivi e fantastici, riemersa così spesso nella storia delle lettere e delle idee germaniche, come ci mostreranno appunto i contributi specifici dedicati a taluni aspetti assai importanti della presenza del tema rinascimentale in autori come il giovane von Hofmannsthal e in Gottfried Semper. Tuttavia, la stessa concezione del Rinascimento, non solo come età storica, ma come modello di vita, di libertà spirituale, di educazione umana, non poteva non diventare un motivo di profonda riflessione teorica e storica per quegli uomini di cultura tedesca che nell'età della formazione del nuovo impero nazionale vissero profondamente la difficile ricerca di un equilibrio tra la propria vocazione nazionale che li induceva a privilegiare le radici individuate nel mondo medievale germanico, nella sua storia, nelle sue istituzioni e nei suoi miti, e la coscienza della loro appartenenza a una comune civiltà europea, i cui sviluppi filosofici e scientifici, storiografici ed etici si fondavano ancora per tanta parte sull'esperienza rinascimentale. Non posso naturalmente neppure accennare le grandi linee di questo problema, di cui furono consapevoli largamente gli stessi fondatori della germanistica e che attraverso discussioni e dibattiti di ogni genere, tra passioni politiche e severe indagini filologiche, portò in ogni caso ad una più matura consapevolezza dei rapporti tra due civiltà e alla comprensione dei molteplici legami che continuarono a correre tra la grande cultura medievale e quella dell'umanesimo, nonché delle stesse radici medievali dell'idea mito della Rinascenza. Si tratta infatti di problemi che emergeranno sicuramente nel corso del seminario, non fosse altro perché in essi si trovano insieme l'origine della cosiddetta rivolta dei medievisti, ma anche di un più maturo pensiero storiografico che ha permesso, specie nel corso dell'ultimo mezzo secolo, una discussione assai più complessa e articolata di molti aspetti della cultura europea del pieno 300 e del 400. Ma gioverà anche aggiungere che se nel corso di queste vicende sono stati particolarmente contestati certi canoni fondamentali dell'interpretazione burckhardtiana, si pensi appunto a quella linea storiografica, anch'essa prevalentemente tedesca, che muove dai testi di Henry Todd per approdare appunto alla lunga ricerca burdachiana, oppure alla revisione francese iniziata in margine ad alcuni testi di Renan e continuata poi dal Gebhard sino a taluni assai più discutibili esiti di tipo confessionale e nazionalistico. Dico che alla fine ne è riuscita confermata la geniale ispirazione fondamentale dello storico di Basilea sul carattere profondamente innovativo della civiltà rinascimentale e la diversa dimensione in cui essa ha posto tutti i problemi essenziali della storia e della esistenza umana. Non solo, si deve in modo particolare a studiosi tedeschi se la valutazione dell'effettivo rinnovamento operato dalla cultura dei due secoli rinascimentali è uscita dalla smagliante rappresentazione delle grandi personalità e degli eventi e situazioni esemplari per trasformarsi in analisi concreta di contenuti filosofici, scientifici, religiosi e politici nella loro realtà effettuale. Per restare in ambiti di studio che mi sono più familiari, mi limiterò a ricordare quanto abbiano contribuito a far conoscere il pensiero rinascimentale, gli studi del Diltai, e poi già all'inizio del nuovo secolo quelli del Cassirer, nomi che cito come altamente rappresentativi del lavoro compiuto da molti studiosi più preoccupato di indagini specifiche che di tracciare grandi quadri interpretativi, ma portatori di conoscenze solide, reali e sicure. Oppure si potrebbero citare i lavori pionieri di storici come il Benrath, tra i primi a indagare le vicende dei riformati e degli eretici italiani agli inizi di un nuovo corso storiografico che ha dissolto molte antiche e infondate convinzioni ed ha mostrato quanto fosse stata profonda anche in Italia la crisi religiosa e quanto eco avessero avuto nei più diversi strati sociali le idee dei riformatori del Nord. Tutto ciò ha contribuito, a mio avviso, anche ad ampliare largamente la stessa dimensione storica del Rinascimento, che da fenomeno tipicamente italiano, quale appariva nel grande libro del Burckhardt, ma anche in scritti di autori spesso ispirati anche a diverse opposte ideologie nazionalistiche, si è trasformato in un evento decisivo della storia europea, i cui esiti forse più operanti nei lunghi tempi della modernità si sono verificati proprio e piuttosto con la riforma umanistica dei modi di pensare, delle tecniche intellettuali, delle istituzioni scolastiche, della riflessione filologica e critica, nella quale furono maggiormente impegnati proprio gli umanisti dell'area germanica, da Erasmo a Thomas More, da Melantone a Johannes Sturm, ai tanti maestri, filosofi, uomini di scienza, ma anche teologi e letterati, ai quali si deve in non piccola parte la formazione di una comune tradizione europea sopravvissuta nonostante tutte le più gravi crisi e fratture. Credo che proprio a questa continuità, nel bene come nel male, negli inevitabili limiti come nei tentativi più audaci e positivi, si debba la ricorrente vitalità dell'idea di rinascita, rimasta così a lungo un punto di riferimento obbligatorio nella ricerca di una civilitas superiore ai confini delle culture nazionali e tuttavia stimolatrice di un loro sviluppo comune, mai distruttivo delle diversità. Assai diverso fu invece per molti aspetti l'atteggiamento assunto dagli uomini di cultura italiani nei confronti dell'età del Rinascimento, reso assai problematico e difficile dalla crescente centralità della questione nazionale e dalle varie proposte ideologiche e politiche che implicavano sempre un giudizio generale sulla storia d'Italia e in particolare sui secoli nei quali il vecchio assetto politico della penisola era stato travolto nello scontro tra le grandi monarchie europee. Carlo Dionisotti, così illustre maestro dei studi di storia della cultura, pone quindi giustamente al centro del suo intervento la questione del rapporto tra Rinascimento e Risorgimento, sottolineando con le parole la questione morale il punto più cruciale di un modo di giudicare il passato che non poteva prescindere dal ruolo che gli intellettuali italiani intendevano assumere nello Stato nazionale nascente e dai loro propositi di rinnovamento etico e politico della società e della cultura. Giacché, e credo che ciò risulterà dall'intervento del Ciliberto, il Rinascimento, che talvolta fu chiamato, anzi agli inizi, proprio anch'esso Risorgimento, fu al tempo stesso per molti uomini di cultura italiani, ottocenteschi, il momento di un indiscusso primato intellettuale italiano. L'età durante la quale nelle lettere, nelle arti, nelle scienze, nel pensiero politico l'Italia sembrò essere, come si legge spesso nei loro scritti, la maestra dell'Europa e l'iniziatrice di un nuovo corso storico dell'incivilimento, come scriveva Romagnosi, sotto il segno della rivendicazione dell'uomo e della liberazione da ogni servitù spirituale. Ma fu però anche il tempo del tramonto delle libertà italiane e della fine di ogni autonomia politica sotto il peso di una dominazione straniera destinata a prolungarsi in varie forme per oltre 3 secoli. Fu anche, soprattutto nel Cinquecento, il secolo della sua maggiore maturazione, il punto di esaurimento delle energie nazionali emerse dalla riscossa dell'età comunale, il momento del cedimento morale e politico, della sottomissione e del conformismo imposti dalla Controriforma trionfante e quindi anche della massima contrapposizione tra uno splendore intellettuale e artistico eccezionale e una decadenza politica che agli occhi degli intellettuali del Risorgimento assumeva tutti i caratteri di una crisi mortale del costume della vita nazionale italiana. Da ciò l'esigenza di un rinnovamento profondo che, cancellando in certo modo quel passato, operasse anche in Italia una riforma non solo politica ma anche morale, che nella meditazione di taluni storiografi o ideologi aveva pure un indiscutibile significato religioso, in contrasto latente oppure aperto con il potere e le istituzioni romane, iniziando qui la lunga questione, vero, sulla mancata riforma religiosa italiana, un problema che poi si è prolungato anche a lungo nel Novecento. Non è naturalmente mio compito affrontare la discussione di simili argomenti al quale provvederanno studiosi assai più competenti. Vorrei però soltanto aggiungere che tra i richiami inevitabili alle grandi glorie del passato, accentuato e reso ancora più imperioso da quell'assillo della romanità, magari ancora soltanto nelle sue forme repubblicane, che è tipico di varie ideologie risorgimentali, e invece il giudizio durissimo sulla crisi italiana del 400 e 500, il Rinascimento divenne insieme oggetto di rivendicazione e di condanna, di rinnovato appello al primato e di rifiuto della decadenza nazionale. Non basta. Se autori che si ispiravano a ideologie evidentemente tradizionaliste o talvolta francamente razionali potevano celebrare l'apologia dei barbari secoli medievali, non mancò anche tra gli storici liberali o addirittura democratici chi cercò nel carattere estetizzante, nell'indifferenza religiosa o nel cinismo politico di quell'età i segni premonitori della inevitabile servitù. E si sa come da diagnosi di questo genere nascessero poi talune tipiche contrapposizioni, come quella tra l'eroismo laico del Machiavelli, che disvelava ai popoli gli arcana imperi e mostrava appunto di che lacrime grondassero e di che sangue, e il presunto opportunismo del Guicciardini, teorico dell'interesse particolare, e cinico rappresentante, cioè cinico, scusatemi, spettatore della tragica crisi italiana. Mentre d'altro canto, il crescente anticlericalismo che soprattutto intorno agli anni 60 e 70 caratterizza alcuni dei ceti più attivi politicamente nella vicenda risorgimentale, doveva poi isolare alcune figure di martiri del libero pensiero, dal Bruno al Campanella al Vanini, e proporre improbabili interpretazioni di alcuni dei maggiori protagonisti della vita intellettuale italiana dei due secoli, dal Savonarola al Pomponazzi, dallo stesso Leonardo a Galileo. Non voglio insistere oltre, anche per non dare a chi mi ascolta l'impressione errata di trascurare l'importante lavoro di ricerca e di studio sulla cultura del Rinascimento, che anche in Italia fu condotto, specie negli ultimi decenni del secolo, con un severo impegno filologico e una misura storiografica davvero non ignara degli sviluppi della discussione europea intorno a simili temi, che anzi la conoscenza dei libri del Burckhardt e del Voigt, ma anche quella di altri tra i maggiori prodotti della storiografia tedesca e francese sul Rinascimento, ebbe profondi echi e suscitò discussioni di non scarso interesse, mentre la tradizione filosofica idealistica, già ben radicata nella cultura dell'Italia unita, riprese e sviluppò nel proprio particolare contesto una concezione del Rinascimento spesso ispirata alle classiche pagine dello Hegel. Anche in questo caso lascio il compito di trattare un argomento così importante alla relazione tessitore, che appunto discuterà gli sviluppi dell'idea di Rinascimento negli autori più rappresentativi dell'idealismo italiano. Ma non si può tacere in ogni caso che la rivendicazione del Rinascimento, quale inizio e fondamento del pensiero moderno, ebbe una delle sue espressioni più tipiche proprio nell'interpretazione di Bertrand Spaventa, che con la sua teoria della circolarità della nuova filosofia considerò i pensatori italiani dei secoli rinascimentali come gli iniziatori di un processo di elaborazione speculativa destinata a svolgersi poi nelle culture dei maggiori paesi europei prima di ritrovare il suo finale compimento nello spirito nazionale dal quale era sorto. Ne andrà sottovalutata l'influenza di questa concezione che riprendeva a suo modo il tema del Rinascimento, aurora del mondo moderno, ma svolgendolo sotto l'influsso di un'ispirazione schiettamente hegeliana che è rimasta a lungo operante in certi aspetti della storiografia filosofica neo-idealistica. Del resto, anche attraverso simili interpretazioni, di uno dei momenti più alti della sua storia, la cultura italiana mirava a stabilire un fermo legame tra la forte accentuazione della propria identità nazionale, tipica dei decenni del Risorgimento, e la sua coscienza del proprio destino europeo come parte integrante di un unico processo storico che coinvolgeva tutte le civiltà europee e che proprio al suo culmine restituiva anche all'Italia la sua dignità di nazione libera e chiudeva il tempo della decadenza e della sua relativa segregazione dalle esperienze decisive del mondo moderno. Si sa quanto questa certezza fosse particolarmente forte in taluni tendenze del neoidealismo italiano e come ispirasse non pochi tentativi storiografici svolti sotto il segno predominante del più che discutibile concetto di precorrimento. Non è qui davvero il caso di insistere su argomenti di questo genere che sono estranei agli interessi centrali di questo seminario. Così come si potrà adesso solo accennare all'intrecciarsi anche nella nostra cultura di certe preoccupazioni di tipo confessionale, ma anche di più solide esigenze di ricerca scientifica, che furono alle origini di varie indagini sulla vita e il pensiero religioso del 400 e del 500 e che già sul finire del secolo resero sempre più improbabile l'immagine unilaterale di un rinascimento tutto e sempre immoralista o indifferente alle ispirazioni religiose di un radicale rinnovamento spirituale. Piuttosto, prima di concludere questo breve cenno introduttivo, sarà bene dedicare almeno qualche parola a un altro tema che nel corso del nostro seminario sarà trattato da Battisti e che interessa ovviamente sia la storia della cultura italiana sia quella della cultura tedesca. La formazione del mito dell'eroe artista e poi dell'eroe, incarnazione estrema dell'uomo del Rinascimento, o meglio ancora, proprio dell'artista eroe, termine così spesso usato anche al di fuori del dominio delle arti o della considerazione estetica, di una civiltà come quella rinascimentale che talvolta fu piuttosto idoleggiata che veramente analizzata e compresa. E basterebbe pensare, per citare un esempio particolarmente illuminato, alle varie interpretazioni volgari di Machiavelli sotto questa etichetta così equivoca e fuorviante. Lascio naturalmente a Battisti il compito di trattare con un'esemplificazione così illuminante quale quella offerta dal caso di Michelangelo le origini e lo sviluppo di questo mito che, al di là di ogni considerazione puramente storiografica, è stata così influente in molti ambienti e personalità e ha nutrito avventure e comportamenti intellettuali tra i più tipici anche della cosiddetta décadence. Per limitarsi all'Italia basterebbe pensare al caso D'Annunzio o addirittura a forme ancora più volgari di utilizzazione di questo mito. E magari è vero anche alla lunga commedia degli equivoci cresciuta nel tempo in margine al grande tema nicciano del superamento dell'umano. Certo è che in ogni caso, intorno a un simile mito si coagularono spesso le aspirazioni, i dubbi e i timori più segreti di ceti intellettuali che avvertivano la progressiva disgregazione del proprio ruolo e status sociale In una realtà ormai dominata dalle tecniche o che cercavano nella figura dell'artista eroe nella sua esaltazione demiurgica il proprio risarcimento e magari la conferma di un illusorio protagonismo. Eppure, al di là delle cattive retoriche e delle favole ideologiche che essa generò, anche il mito dell'artista eroe fu talvolta un tentativo di richiamarsi alle origini, agli inizi di una civiltà di cui si approssimava il tramonto, ma che continuava ancora a proporre l'idea di una potenza creatrice capace di trasfigurare la figura dell'uomo nel divino. La storiografia e gli studi del nostro secolo, che hanno sempre più tentato di ricostruire un rinascimento senza miti, o meglio di interpretarlo e comprenderlo nelle sue dimensioni storiche più certe, nei processi di trasformazione culturale che si compirono in quei secoli e nelle idee che li generarono o li favorirono, hanno ormai dissolto i molti equivoci e le suggestive immaginazioni che hanno accompagnato a lungo la fortuna di quell'affascinante concetto nato anch'esso dal mito ancestrale del rinascere. Né oggi sarebbe certo più possibile adunare intorno alla figura di alcune delle personalità più emblematiche di quel periodo il culto o persino l'ambigua liturgia che ad esempio sono fioriti per più di un secolo intorno all'immagine di Leonardo, o attribuire a un'età di cui crediamo di conoscere forse un po' meglio i linguaggi e i simboli, quell'aura tra magica e sacrale che gli è stata fornita da alcuni facili e fortunati stereotipi. Con tutto questo ritengo che ogni tentativo di leggere la vicenda ormai per tanti sensi conclusi della modernità non possa mai evitarsi di evitare il confronto con la cultura e i miti che sono alle sue origini e che in ogni fase della storia delle civiltà europee hanno continuato ad agire, proponendo modelli ed idee sempre affascinanti, ma imponendo anche agli storici problemi sempre più ineludibili. È mia convinzione che il nostro seminario potrà essere l'occasione propizia per intendere come in momenti storici decisivi due culture così diverse nel loro sviluppo e tradizioni abbiano affrontato il tema non solo storiografico ma anche filosofico, religioso e politico del Rinascimento e fornito alcune risposte ancora e sempre operanti anche nel dibattito intellettuale dei nostri giorni. E certo, ascoltando le relazioni degli illustri colleghi e amici e le discussioni e i confronti che ne seguiranno, ognuno di noi potrà trovare nuove e preziose indicazioni di ricerca, temi di riflessioni e di lavoro intorno a questo inesauribile oggetto storiografico nel quale si celano ancora tante ragioni della nostra stessa identità culturale. Grazie.